Il sentiero si divide. Davanti a voi due scelte. Una scalata ripida, veloce ma rischiosa. Oppure un sentiero tortuoso, più lungo ma sicuro. Quale via scegliete?